623. Cotognata. Mele, cotogne, chilogrammi 3. Zucchero bianco fine, chilogrammi 2. Mettete al fuoco le mele coperte d'acqua e quando cominciano a screpolare, levatele, sbucciatele e grattatele alla meglio per levarne tutta la polpa, che passerete poi dall'ostaccio. Rimettetela al fuoco con lo zucchero e rimestatela sempre onde non si attacchi. 7 od 8 minuti di bollitura basteranno. Ma poi, se presa su col mestolo, comincia a cadere a stracci, levatela. Se la mettete in vasi, potrà servirvi come conserva e fatta in tal modo resterà più bianca di quella che vi descriverò al numero 741, ma con meno fragranza, perché una parte dell'odore particolare a questo frutto si sperde nell'acqua. Per ridurla a cotognata, distendetela sopra un asse alla grossezza poco più di uno scudo ed asciugatela al sole coperta di un velo perché le mosche e le vespe ne sono ghiottissime. Quando è asciutta di sopra, tagliatela in forma di tavolette di cioccolata e passandole sotto un coltello per distaccarla dall'asse, rivoltatela dalla parte opposta. Se poi vi piacesse di darle forme bizzarre, procuratevi degli stampini di latta vuoti dalle due parti, riempiteli, lisciateli e distaccando la marmellata dagli orli con delicatezza, ponetela ugualmente sull'asse ed asciugatela nella stessa maniera. Potete anche crostarla volendo e allora mettete a struggere 100 g di zucchero bianco con 2 cucchiaiate d'acqua e quando avrà bollito tanto da fare il filo, presane una goccia fra 2 dita, spalmate ogni pezzo con un pennello. Se lo zucchero vi si rappiglia durante l'operazione, che è bene fare in una giornata non umida, rimettetelo al fuoco con un altro gocciolo d'acqua e fatelo bollire di nuovo. Quando lo zucchero è asciutto da una parte sugli orli, spalmate la parte opposta.